Stati Uniti, in New Hampshire, avanti Sanders, India, un uomo qualunque sfida Modi e infine, ancora una volta, il dossier libico. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. Donald Trump hopes to win re-election by dividing our people based on the color of their skin, their gender or religion. فالأهم من ذلك هو نزع هذا السلاح الذي أرهب الناس وقتل الناس ونهب أموال الليبيين. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, anche quest'oggi vi raccontiamo tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani in regia. I numeri di Nessun Luogo, 349-238-6666 per domande e commenti, sms e whatsapp, ma poi c'è anche Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Infine Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì trovate anche la diretta video di questo programma e lì potete anche commentare o porre domande. Giornata ricca di temi, per cui immediatamente andiamo a misurare la temperatura internazionale. Stiamo raccontando da giorni quella che è l'offensiva condotta dal regime di Damasco sulla intera provincia di Idlib nel nord della Siria, offensiva di terra supportata anche dai raid russi. Vi davamo conto ieri di un elicottero siriano abbattuto, non si sapeva ancora di chi fosse la responsabilità, ebbene secondo le principali network internazionali sarebbe addebitabile ai ribelli siriani, ma spalleggiati appunto dalla Turchia. Prosegue intanto l'escalation, il braccio di ferro, a questo punto non soltanto sul terreno ma diventa anche verbale, lessicale, i toni sono assolutamente incendiari fra Damasco e Ankara. In particolare nelle tarde ore del pomeriggio di ieri Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco, ha detto che il governo siriano, testuali parole, pagherà un altissimo prezzo per aver attaccato i militari turchi a Idlib. Daremo tutte le necessarie risposte sui siriani al più alto livello, così ha proseguito Erdogan, e specialmente a Idlib avranno ciò che si meritano. Cambiamo argomento, cambiamo anche continente, andiamo in India perché vi abbiamo dato conto di quella tornata elettorale per il governo di New Delhi che in qualche modo ha consacrato un uomo qualunque, cioè per la prima volta un partito non legato al BJP di Modi sta sfidando proprio il nazionalismo hindu del premier indiano. Il tutto arriva dopo una delicatissima fase politica e non solo che sta vivendo l'India, pensate alla questione del Kashmir, pensate alla controversa legge sulla cittadinanza dei cittadini musulmani e dei profughi che arrivavano dai territori, dalle nazioni vicine. Insomma, politicamente sembra che vi sia stato uno stop perché a vincere la tornata elettorale, vi dicevamo proprio ieri, è stato Arvind Kejriwal. Abbiamo raggiunto Zoya Hasan, che è professore emerito alla Jawaharlal Nehru University, già professore di scienze politiche, ci ha parlato da Nuova Delhi, è un'attenta analista e osservatrice di ciò che accade appunto a Delhi. Cerchiamo di definire un ritratto di questo uomo qualunque e come mai ha avuto così tanto successo. Ascoltiamo. Well, Arvind Kejriwal is a leader of the Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal è il leader del partito dell'uomo comune. Ha svolto un ruolo di primo piano all'interno di un movimento anticorruzione fra il 2011 e il 2012. Ha poi guidato un'organizzazione dal nome India Against Corruption, che ha organizzato molte importanti proteste contro la corruzione e che ha contribuito alla caduta del governo. Kejriwal è stato un attivista contro la corruzione e ha trasformato quel movimento in quella che oggi è la base del suo partito. Questa è la terza volta consecutiva che viene eletto all'Assemblea legislativa di Delhi. This is the third consecutive election to the Delhi Assembly. La voce, l'analisi e il commento di Zoya Hasan, professore emerito alla Jawaharlal Nehru University da Nuova Delhi, su questo nuovo personaggio politico, ma che a ben vedere si è fatto le ossa, come dire, con un'intensa attività sul territorio. Ma andiamo meglio nel merito, nelle ragioni di questa vittoria. Ascoltiamo ancora la professoressa. There are several different reasons why his party has won such a massive majority. Ci sono diverse ragioni per cui il suo partito ha avuto una maggioranza così schiacciante, 62 seggi su 70. Negli scorsi 5 anni, e in modo particolare negli ultimi 2, ha concentrato il lavoro del governo per migliorare l'istruzione scolastica, costruire nuove scuole, attivare piccole cliniche pubbliche che forniscono medicinali e visite gratuite ai più poveri. Ha garantito forniture gratuite di acqua ed elettricità alle fasce di popolazione più povera. Un altro provvedimento molto popolare è stato quello di aver reso gratuiti i trasporti pubblici per le donne. Tutta la sua campagna elettorale è stata incentrata su quella che ha definito politiche per il lavoro. Ha presentato questi provvedimenti come un nuovo nazionalismo, contrapposto a quello del BJP, che mette l'accento su un nazionalismo basato principalmente sulla religione. E dal momento che le persone hanno beneficiato concretamente di queste misure di welfare, allora hanno votato per lui. Inoltre ha vinto queste elezioni evitando di essere intrappolato nel dibattito sul nazionalismo e antinazionalismo. La campagna del BJP è stata concentrata sul nazionalismo, campagne d'odio e polarizzazione fra musulmani e hindu. Kejriwal ha rifiutato di stare in questa contrapposizione. E così viene lanciato il guanto di sfida dall'uomo qualunque. Questo è il nome del partito che Kejriwal ha dato appunto alla sua formazione, che incredibilmente si è assicurata 62 seggi su 70. Ma come può impattare questa vittoria, ricordiamo le locale ma numericamente molto sostanziosa, sulla politica dello stesso Premier Modi? Sentite ancora la voce di Zoya Zan da Nuova Delhi. Sicuramente gli elettori di Delhi hanno lanciato un messaggio all'India e al BJP, e questo messaggio è che la politica dell'odio non funziona. Mi pare che gli elettori di Delhi abbiano tracciato una linea, perché sentono che si è esagerato con questa polarizzazione. Se il BJP eviterà questi comportamenti alle prossime elezioni legislative, che si svolgeranno fra il 2020 e l'inizio del 2021, questo è tutto da vedere. Ma dubito che si asterranno completamente, perché è questa l'ideologia del BJP. E anche se magari limiteranno qualche comportamento, non penso che il BJP cambierà strategia. Questo è il capitolo indiano. Prima di chiuderlo però rispondo a un ascoltatore che al 349-238-6666 dice: secondo me è un bluff perché deve fare quanto promesso. Così Giuliano da Modena, che credo che si riferisca a quelle che sono state da un lato le promesse elettorali di Kejriwal, dall'altro invece quello che già aveva fatto a livello di amministratore locale, e alcune delle cose promesse effettivamente le ha fatte, da ciò la ragione del suo successo. Insomma, anche se a distanza ma con il supporto di un analista politica sul terreno, per così dire, si ha l'impressione da qui che sia un politico molto concreto. Per fare un parallelismo, è come se come dire, parlassimo in Italia di un amministratore di una provincia, di un comune, di una regione, per cui l'elettorato, come dire, da cui l'elettorato si aspetta anche cose concrete, e rispetto invece a una politica nazionale improntata da Modi su un piano molto molto ideologico. Poi chiaramente dobbiamo ricordare che l'India è quasi un continente, è sterminata, popolazione gigantesca, tantissimi stati, quindi chiaramente questo può essere un segnale politico, ma va ridimensionato e rivalutato, per quanto va sottolineata l'importanza appunto di Nuova Delhi. Adesso riapriamo il capitolo libico, poi lo riapriremo col nostro ospite alle 16.30, quindi Roby, giù tutto. Bengasi ha 8 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 11 di gasolio, 12 di GPL. Tobruk non ha più capacità di benzina, gasolio e 4 giorni di GPL. Sebah non ha più capacità di stoccaggio di benzina e GPL, mentre ha 16 giorni di gasolio. Si è concluso al Cairo il secondo round di incontri, di natura stavolta prettamente economica, e organizzati dalle Nazioni Unite, che ha visto coinvolti i principali attori economici in Libia. Si è discusso della formazione di una commissione di esperti economici e delle sfide economiche del paese. Si parla di collaborazione da parte delle organizzazioni internazionali, lasciando però intatta la sovranità della Libia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle istituzioni statali, beni e risorse economiche. Si attende sempre la risposta della diplomazia internazionale. Allora adesso apriamo la nostra prima vera e propria pagina di Nessun Luogo Lontano. Andiamo negli Stati Uniti, in particolare a nord, New Hampshire, dove cos'è accaduto? Lo sentirete dalle parole del parziale, temporaneo, provvisorio vincitore Bernie Sanders. Thank the people of New Hampshire for a great victory tonight. The reason that we won tonight in New Hampshire, we won last week in Iowa. Va avanti la lotta fra i democratici per andare a consacrare quello che sarà lo sfidante in vista di novembre 2020 per l'ultimo rush finale contro Donald Trump. Cosa è accaduto in New Hampshire? Innanzitutto il sistema di conteggio dei voti ha funzionato, e già questa è una notizia dopo la figuraccia dei democratici in Iowa. Bernie Sanders ha vinto le primarie 26%, ha staccato di pochissimo Buttigieg, che si è fermato al 24%. A sorpresa Amy Klobuchar, malissimo Elizabeth Warren, 9.4%, ma se ho detto malissimo di Elizabeth Warren non so bene che aggettivo trovare per Joe Biden, che è sostanzialmente evaporato, si è fermato all'8.4%. Tre candidati si sono già ritirati, in buona sostanza quella che sarà una vera e propria maratona in vista di novembre, ma molto prima del Super Tuesday, sta iniziando, come dire, a far cadere gli atleti, quelli meno forti, meno resistenti, con meno muscoli nelle gambe. E in particolare il senatore Sanders, che come sentite mosso da moti di giubilo ha ringraziato tutta la folla del New Hampshire, in realtà deve anche dire un grandissimo grazie alla Cortez, perché il comizio finale di Alexandria Ocasio-Cortez, lo sapete, personaggio politico molto in vista ma anche molto controverso, sto parlando ovviamente del fronte repubblicano, il 10 febbraio ha fatto un comizio incredibile, esplosivo, ha dimostrato tutto il suo talento nell'eloquio, nel rapire anche il pubblico, e secondo gli analisti avrebbe dato la volata finale per questa tornata di primarie. E poi c'è un'altra corsa parallela che si sta mettendo in piedi a fianco a quella delle nomination dei democratici, ma anzi forse dovrei dire quasi un passaggio di testimone, come forse una corsa con la staffetta. Sentite qui. I candidati democratici affilano le armi e chiamano rinforzi. Elliott all'ultimo endorsement. La supermodella e star dei social Emily Ratajkowski chiede un selfie a Sanders, che considera un'incorruttibile anima pura. He's been an outsider and he's spent a lifetime of serving these ideas rather than corporations, which is so refreshing. E di selfie in selfie, Sanders riesce ad accaparrarsi più follower. Kevin Costner sceglie di sfilare sul red carpet con Pete Buttigieg. When I hear his voice, I hear his vision, I believe in that. And you hear it once in a while, you know, I'm interested in if other people are hearing what I'm hearing. Ed è quasi Oscar. Megan Rapinoe, capitana della nazionale americana di calcio femminile, fa un assist per Elizabeth Warren. Donna brillante e determinata. I'm interested in Warren. She's just so smart and she's powerful, I think. She just has that like something sort of intangible about her. Che però non finalizza l'azione della compagna mancando la rete. E così tra il serio e il faceto abbiamo anche fotografato quella che è stata la corsa, la gara agli endorsement, personaggi pubblici che vengono dal mondo del cinema, della musica, ma anche dello sport, che hanno dato il proprio appoggio all'uno o all'altro candidato. Buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Riccardo Barlam, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Riccardo. Buongiorno a voi. Si potrebbe dire, parafrasando una canzone di Guccini, il vecchio e il bambino, perché quello che si sta profilando nel campo democratico è uno scontro tra il nonno rivoluzionario, che è Bernie Sanders, adorato da folle di giovani, e l'emergente, che è Pete Buttigieg, questo personaggio che piace, è giovane e a sorpresa ha preso, come dire, da due stati ha preso la rincorsa, e tutto il fronte moderato dell'establishment democratico ha mollato Biden, che come tu hai ricordato è evaporato, l'ex vicepresidente di Obama, e sta seguendo questo ragazzo. Sì. E quindi l'elemento in più che si è avvicinato, la sorpresa di queste elezioni, che intanto sono andate bene, nel senso che sono riusciti a contare le schede. Che sembra una battuta, ma dopo il pasticciaccio dell'Iowa, insomma, c'era grande tensione sul fronte democratico. Beh, perché due figuracce sarebbero globale, state troppe. E quindi questa volta sembra che ce l'abbiamo fatta, sono al 90% del riconteggio, ma è la sorpresa di questa senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, che anche lei è un po' è un'operaia dei democratici, perché è una di quelle che ha più lavorato, che ha firmato più leggi al Senato, è una di quelle che cerca di far parlare i democratici repubblicani, quindi l'anima un po'... quelle che mettono la testa in basso e lavorano, e lei a sorpresa è al 20%, quindi sì. è una spanna da Sanders e Buttigieg, e quindi il fronte moderato ha due ospiti come dire, che insieme fanno il 40% dei voti. Sì. Quindi ha vinto Sanders, ma dietro ci sono questi due che sono la parte, diciamo, più più normale, più che fa meno paura del Partito Democratico, che si giocheranno la nomination a questo punto, con l'incognita del terzo, che è Mike Bloomberg. Certo, che potrebbe sicuramente farà capolino. Trump, no, a un certo punto. Trump ieri, in modo un po' greve, diciamo, su un tweet ha pubblicato una foto di lui e Bloomberg che giocavano a golf, dove si vedeva, lui lo chiama sempre Little Mike o Mini Mike, citando il nemico, il cattivo di Austin Powers, che si chiama Mini Me. Sì. E c'è questa foto di loro due che giocano a golf, dove la mazza da golf di Bloomberg, siccome lui è più piccolino di Trump, sì, è più piccola, lasciando intendere in modo un po' greve, insomma, potete immaginare. Sì. No, parlavi ovviamente di strumenti e arsenale politico, questo è evidente, no? No, ecco, però c'è da dire questo, che c'è un sondaggio tra gli imprenditori delle PMI americane che dicono che l'unico dei democratici che potrebbe davvero impensierire Trump è proprio il Mike Bloomberg, che entrerà il 3 marzo e sì, quello che da quando c'è stata la debacle dell'Iowa ha raddoppiato la spesa dell'advertising, delle pubblicità in TV. Le TV americane sono, basta accendere un qualsiasi canale e viene fuori uno spot di Bloomberg che parla male di Trump, che dice che Trump, insomma, l'America è crollata, è finita male, che bisogna ripartire, insomma, è tutta una campagna proprio giocata contro Trump, e quindi gli sta dando ragione in qualche modo, perché sta salendo nei sondaggi prima ancora di essere entrato nella corsa. Quindi certo, pensiamo, Riccardo, direi. Certo, ti interrompo, è ben interessante questo aspetto, perché soprattutto a posteriori, vedendo quello che è accaduto in Iowa, ma anche adesso in New Hampshire, la scelta di Bloomberg di sottrarsi all'inizio della gara e, come dire, lasciarsi scannare un po' tra loro i democratici, vedere chi emerge veramente, ma nel frattempo investire sulle televisioni, è una scelta molto molto precisa. Invece volevo chiederti, visto che abbiamo fotografato in maniera un po' scherzosa i vari endorsement delle star, no? Connotando questa campagna anche in modo molto pop, quanto contano gli appoggi, gli endorsement delle star in campagne di questo tipo? Quanto riescono a muovere realmente a livello di voti, secondo te? Ma dipende chi è la star. E ovviamente hanno qualche influenza, ma da sempre è così. E Sanders è quello che piace di più ai giovani, piace di più ai black people, agli afroamericani, e diciamo il nonno rivoluzionario. E non so se riuscirà questa volta a convincere l'establishment del Partito Democratico a puntare su di lui. E certo, questa frattura che va avanti dal 2016, dai tempi di Hillary Clinton, lui ormai ha 78 anni, e quindi certo, è veramente avanti con gli anni, sì, da pensare, ma insomma tutta la parte dei giovani, dei millennial, è con lui, ecco. E hai ricordato bene della Alessandra Ocasio-Cortez, che ha un seguito in tutto il movimento Me Too, tutta la parte dei latinos, che sono diventati l'etnia, diciamo, con maggior numero di votanti negli Stati Uniti, hanno superato gli afroamericani e anche i bianchi, quindi Il voto ai latino conterà parecchio. Peraltro, Riccardo, tu sei quasi, stai scaldando i muscoli per andare in Texas e lì seguirai uno degli appuntamenti più importanti, Super Tuesday, e fra l'altro ci sentiremo naturalmente. Nicola al 349-238-6666 chiede: vedo un forte spiegamento dello star system per i candidati democratici, come si spiega l'assenza di questi per i candidati repubblicani in passato, come se vi fosse, come dire, endorsement a intermittenza. C'è più simpatia verso i democratici da parte dello star system, noti questo, Riccardo? Beh, io noto che rispetto per esempio ai tempi di Obama, vi ricordate che lui addirittura tante rockstar suonavano alla Casa Bianca, ci sono stati dei concerti fenomenali, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e tanti altri, e tanti non parlano. Tanti non preferiscono non dire, non esporsi. Lo stesso Bruce Springsteen, che in questi anni ha fatto una serie di dischi, spettacoli nei teatri, continua a andare avanti con le sue produzioni, ma non ha preso mai decisamente una posizione contro Trump, perché l'America vera è tutto il Midwest, tutto l'interno dell'America è col presidente Trump. E anche la cosa interessante, tante parti dell'America, diciamo, della worker community, i cosiddetti blue collar, gli operai, le tute blu, sperano in Trump perché dicono: Trump ci salverà dalla globalizzazione, ci salverà dalla droga, le famiglie che i suicidi, le famiglie che si separano, la gente che perde il lavoro. In questi posti sperduti all'interno dell'America, alcune le chiese evangeliche, per alcuni sembra, dicono anche i più esaltati, che è stato mandato da Gesù. Insomma, attecchisce parecchio, un presidente che piace. Attenzione a non prendersi molto conto di lui, perché comunque certo, ha un grande suo consenso. È certo, perché anche una pop star o una rock star evidentemente campa di pubblico e di consenso. C'è questa strana similitudine, se volete, tra il mondo politico e quello della musica. Mi vengono in mente giusto gli Strokes, che hanno fatto un endorsement molto chiaro ieri per i democratici, però insomma stiamo parlando di indie rock e quindi non so quanto impattano realmente sull'opinione pubblica americana. Ti lascio prepararti per i tuoi prossimi lavori e la lunga corsa verso il Texas. Vacci in macchina però, Riccardo, non mettere in mostra le tue doti di maratoneta. Ti vogliamo bello fresco la prossima volta in onda. Perfetto, in bici si può fare. È andata. Grazie mille, Riccardo Barlam, corrispondente Sole 24 Ore da New York. Buona giornata, buon lavoro. Ci sono un po' di messaggi, mi piace leggere questo, molto ironico: vivranno tutti nel terrore di ricevere un endorsement di Hillary, facendo riferimento evidente a Hillary Clinton. La candidatura di Sanders sarebbe un regalo per Trump, non gli parrebbe vero, gli fa eco Francesco. Insomma, vedremo come andrà a finire. Sembra una litania questa, ma è così, nel senso che la corsa dei democratici è ancora molto molto lunga e dobbiamo aspettare davvero veramente l'ingresso di Michael Bloomberg, perché quello potrebbe stravolgere totalmente gli equilibri. Io direi adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di Libia e lo facciamo con un ospite che non vi annuncio neanche. State con me. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano va a concentrarsi ancora una volta sul dossier libico. Complice nelle ultime ore una visita lampo da parte del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio a Tripoli, dove ha incontrato Sarraj, ma non solo. In un post su Facebook Luigi Di Maio ha tirato un po' le somme di quello che è stato l'incontro: continuiamo a lavorare per il rispetto dell'embargo sulle armi, portare le parti a un cessate il fuoco permanente, l'Italia sarà determinante in ogni scelta europea, nessuno, ha scritto Luigi Di Maio, come noi conosce la Libia, nessuno come l'Italia ce l'ha a poche centinaia di chilometri dalle proprie coste, c'è un rischio terrorismo che non possiamo sottovalutare, paesi che ignorano la pace e che continuano ad armare le parti sul terreno, non possiamo accettarlo. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Amalio Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Buongiorno Di Stefano. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Sottosegretario, come si concretizza questo rifiuto, cioè il fatto di rifiutare che parti esterne, attori esterni continuino ad armare i due contendenti in Libia? Ci sono già truppe sul terreno, ci sono morti civili, ci sono i voli delle Nazioni Unite bloccate su Tripoli. Come si può concretizzare questa presa di posizione che ha fatto il ministro degli Esteri Di Maio? Noi stiamo agendo ad almeno due livelli, ovvero uno è quello europeo, chiedendo concretamente che tutti i paesi europei facciano un blocco comune nel non fornire sostegno alle varie parti, diciamo, coinvolte in causa, non solo la Star, chiaramente. E dall'altra parte si sta lavorando anche per chiedere una missione a guida europea per fare il monitoraggio delle rotte del traffico di armamenti. Purtroppo sappiamo con certezza che proprio negli ultimi due mesi, nel momento di più alto, diciamo, dibattito internazionale sulla Libia, arrivavano cargo e container pieni di armamenti. Sì. E Haftar ne ha potuto riapprofittare, diciamo, per armarsi e diciamo, tenere sotto scacco Tripoli. Sì. E sicuramente dall'altra parte c'è tutto il lavoro diplomatico che si fa nelle nostre rappresentanze presso i paesi che sappiamo essere a sostegno in questo momento, per lo più di Haftar, perché poi dando nomi e cognomi alle cose, colui che tiene sotto scacco militare il paese in questo momento è Haftar. Non c'è dubbio. Quindi si sta facendo un lavoro nel Golfo, sta facendo un lavoro con gli Emirati, sta facendo un lavoro con i paesi del Golfo che sono pressoché tutti coinvolti in questa storia, sì. Con i loro interessi, sì. L'Egitto, e purtroppo devo dire che soltanto ora si è riusciti ad avere un vero coordinamento europeo. Non è un caso che Di Maio oggi va in Libia, ma ieri ha incontrato il ministro degli esteri Le Drian francese. Sì. Perché chiaramente la Francia gioca una partita in Libia e dobbiamo giocare la stessa partita se vogliamo risolvere un problema che purtroppo dal 2011, per un errore grave francese, è diventato un problema nostro. Mm. Con Parigi siete giunti a un accordo di non ingerenza. La Francia si è sempre detto e scritto che in maniera anche spesso sotterranea e giocando in maniera antitetica rispetto agli interessi italiani appoggia Haftar. Ma io devo essere molto sincero, no. Sulla carta l'accordo c'è sempre stato, cioè sulla carta siamo tutti d'accordo, sì. che non vadano sostenute forze armate non ufficiali, mettiamola sì. Così. E il problema è che poi nei fatti abbiamo purtroppo costato in passato le violazioni di questo principio. Ora i rapporti tra Italia e Francia, devo dire, sono più solidi che mai. Il ministro Di Maio ha impegnato tante le sue energie in questo, ripeto, sì. In ultimo l'incontro di ieri proprio, sì. E quindi ci aspettiamo lealtà. Credo che oggi sia chiaro che è nell'interesse di tutti, perché oggi non è più una partita tra Italia e Francia soltanto. Ah, no, è una partita di posizionamento della Libia nei prossimi anni, cioè vogliamo lasciarla in mano... con i loro interessi legittimi, per carità, a Turchia, Egitto, Russia, o vogliamo che la Libia sia un affare europeo? Io credo che la seconda strada sia quella che fa l'interesse di tutti, prima di tutto a livello civile. Cioè, c'è un problema che potrebbe nascere legato al terrorismo, c'è un problema di rotte migratorie, c'è un problema di vicinanza geografica del paese, certo. Quindi noi dobbiamo giocare una partita comune. Certo. Sottosegretario Di Stefano diceva che più o meno si sta trovando una quadra tra i paesi dell'Unione Europea. In quel caso una missione militare sotto l'egida europea vedrebbe l'Italia in prima linea? Io credo che non ci sia un'alternativa a questo. L'Italia è il paese che conosce meglio la Libia, è uno degli unici due paesi che ha mantenuto l'ambasciata aperta costantemente. Abbiamo una presenza imprenditoriale importante e soprattutto siamo rispettati dai libici. E questo ci dà sicuramente un vantaggio in ottica risolutiva. I tempi di questo possibile intervento? Questo dipenderà dai dialoghi europei e soprattutto anche dalla conferenza che farà il seguito di quella di Berlino, sì. Che avverrà a breve. E chiaramente è inutile dire che le sensibilità sono diverse in Europa. I paesi più nord europei. Chi è che mette i bastoni tra le ruote? Per dirla in maniera prosaica, i bastoni delle ruote è proprio una mancanza di sensibilità, perché i paesi del nord Europa vedono la Libia come una cosa che non gli riguarda più di tanto. E quindi invece, però questo è il classico problema europeo, sì. Purtroppo l'abbiamo visto anche in altri ambiti, anche con l'immigrazione è stato sempre lo stesso. Certo. Credo che quindi un'alleanza più stretta tra Italia e Francia, ad esempio, possa indirizzare l'intera Unione Europea in modo più concreto. Sì, quindi una comunione di politiche anche sul dossier libico tra Italia e Francia sembra difficile da immaginare al momento, però se state lavorando per questo mi sembra un segnale importante. Ha citato i paesi del Golfo, so che lei peraltro personalmente si è recato almeno 3 volte ad Abu Dhabi, sì. Emirati Arabi Uniti, e noi da questi microfoni spesso ribadiamo il peso importantissimo di Abu Dhabi sui droni emiratini, su tutti, dalla parte di Haftar. Nelle sue trasferte ha parlato anche del dossier libico? Sì, chiaramente. Io ho avuto, l'ho detto in passato, il governo italiano oggi ha la Libia come sua priorità assoluta in politica estera. È riuscito a ottenere qualche garanzia da parte degli Emirati Arabi Uniti? Il problema è che sulla carta grandi garanzie, poi il fatto che gli emiratini vedono la questione libica come una questione di interesse nazionale, perché gli emiratini storicamente tutto ciò che può essere in qualche modo legata alla fratellanza musulmana per loro è una spina nel fianco, sì. Di conseguenza indirettamente poi sono sempre coinvolti, sì. Però anche per questo gli Emirati sono un paese che stiamo da tempo ormai, come lei ha giustamente ricordato, attenzionando, e stiamo avendo rapporti sempre più stretti per far capire a tutti quelli che sono interessati in Libia che una Libia pacificata è sotto una influenza positiva dell'Italia e dell'Unione Europea non sarà un problema per nessuno, sì. Perché capiamo gli interessi di tutti, sì. Però dobbiamo prima di tutto capire gli interessi del popolo libico che vanno tutelati. La voce che sentite è quella di Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Il dossier che stiamo analizzando è quello libico, complice una visita, l'ennesima, l'intensa attività della Farnesina in queste settimane è dettata da un'urgenza sul campo, perché Haftar sta alitando a sud di Tripoli e non solo. Noi stiamo dando conto del countdown ormai che riguarda tutto l'aspetto di estrazione del petrolio, che potrebbe anche andare a impattare sulle imprese italiane. Tra pochissimo faremo una pausa, sottosegretario. Intanto grazie ancora per essere con noi. E affronteremo un altro capitolo di questo dossier libico. Però un ascoltatore al 349-238-6666 dice: proprio perché a troppi paesi europei non interessa la questione libica, l'Italia deve entrare in scena e direttamente. E in sostanza, da corpo alla domanda che volevo farle, se la diplomazia ha i suoi tempi, e purtroppo, come dire, la diplomazia europea si è spesso contraddistinta per una certa lungaggine, non converrebbe forse un estremo atto di coraggio da parte dell'Italia e mettere la quinta e fare una cosa che magari ai molti potrebbe sembrare anche impopolare, e mettere i cosiddetti boots on the ground per dare finalmente, una volta per tutte, un segnale di un certo tipo? È un'ipotesi troppo estrema, secondo lei? Guardi, sarò altrettanto sincero come prima. Io credo che a parole sia una strada. Nei fatti vorrei chiedere a chi ha fatto la domanda da casa se dopo i primi 10 morti dei nostri militari in Libia penserebbe la stessa cosa. Cioè, dobbiamo essere anche molto sinceri, un'operazione europea è un'operazione più tutelata, è un'operazione più sicura per tutti, ed è un'operazione soprattutto più ben vista e ben voluta dai libici stessi. Un'operazione di un unico paese verrebbe vista quasi come un voler mettere veramente i piedi nel senso politico, non soltanto militare, in un paese. Non credo che sia una strada percorribile, sinceramente. Sottosegretario Di Stefano, facciamo una piccolissima pausa, poi continuiamo a parlare di Libia. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano con il sottosegretario agli esteri Mario Di Stefano per affrontare lo spinoso dossier libico. Mario Di Stefano pochi minuti fa diceva: attenzione, perché mettere la quinta da parte dell'Italia, una presenza militare diciamo unilaterale senza l'egida dell'Unione Europea per esempio, potrebbe portare anche a una minore protezione, non solo in senso politico, immaginiamoci, diceva Di Stefano, se vi fossero dei caduti italiani, le reazioni giustissime che vi potrebbero essere, mentre un accompagnamento da parte della comunità internazionale metterebbe al sicuro questa operazione italiana. Però l'obiezione che le muoverei, sottosegretario Di Stefano, è che altri hanno già mandato i boots on the ground, la Turchia con una mossa spregiudicata e incredibile che si affaccia sul Mediterraneo Mediterraneo, i mercenari della Wagner, quindi i russi, l'Egitto stesso. Insomma, è una situazione dove sembra che tutti mettano i piedi sulla sabbia libica e chi la conosce meglio, cioè l'Italia, non la fa. Beh, io, mia madre mi ha insegnato a prendere esempio sempre dai migliori, non dai peggiori. Se volessimo sintetizzare il tutto, lo potrei dire così. E credo che l'Italia e l'Europa abbiano un pacchetto valoriale che deve necessariamente distinguerci da altre azioni. Sì. Noi non lavoriamo con i mercenari, noi non lavoriamo in autonomia soltanto perché dobbiamo imporre i nostri interessi. Ma devo essere molto sincero, sì. Turchia e Russia, che sembrano così assertive e unilaterali, però cercano di avere un continuo riferimento nell'Italia e nell'Unione Europea. Noi incontriamo e sentiamo regolarmente i turchi, il ministro Di Maio ha incontrato il suo omologo turco due volte da dicembre ad oggi. E il presidente ha contatti, abbiamo rapporti a tutti i livelli, quindi è chiaro che non possiamo pretendere, perché non fanno parte del sistema europeo, però c'è una sorta di coordinamento. Chiaramente la Turchia ha un chiaro obiettivo, questo dobbiamo dircelo anche per capire meglio la politica estera nei prossimi anni. La Turchia vuole posizionarsi come attore principale nel Mediterraneo e quindi ovviamente dovrà fare i conti, ma lo dico in modo politico, non di altro genere, non con astio, con l'Italia e necessariamente con l'Unione Europea, che nel Mediterraneo hanno i loro interessi da sempre. Sì. E credo che però ci sia spazio per il dialogo. E la Turchia lo cerca in qualche modo, al di là dell'atteggiamento molto assertivo che ha. Sì. E quindi credo che la cosa si possa portare a una condivisione maggiore. Sì. La Russia chiaramente, esattamente come gli Stati Uniti, ha la sua agenda parallela e non sempre coincidente con quella europea su quasi tutti i capitoli del Mediterraneo, quindi necessariamente c'è un bilanciamento da fare. Sì. Sottosegretario Di Stefano, io mi permetto di dubitare, come dire, è vero che la Turchia è super spregiudicata e non c'è dubbio, però è anche vero che sia Turchia che Russia stanno investendo in un teatro molto lontano e per loro molto costoso, mentre noi abbiamo una capacità di proiezione e anche competenze militari che ci sono riconosciute in tutti i grandi teatri internazionali che sarebbero già lì, ma questo è un mio personalissimo commento. Detto ciò, non è che la nostra politica estera è un po' troppo schiava della politica interna? Cioè, non è che, non parlo di lei in particolare, ma in generale, non nota, come dire, un asservimento anche di obiettivi che potrebbero essere lungimiranti nel lungo periodo, una stabilizzazione della Libia che gioverebbe sicuramente anche al nostro paese, non parlo solo dell'immigrazione, perché comunque in Italia si sa, si va al voto molto spesso, i governi a volte soffrono di spallate, magari anche amiche, lei non vede questa schiavitù, questo subordine in qualche modo di una politica estera che così non riesce mai a essere lungimirante? Ma è evidente che una politica interna stabile ti favorisce anche nella proiezione estera, però anche i paesi che hanno una politica interna stabilissima, mi viene in mente Francia e Germania, hanno lo stesso atteggiamento nostro, perché qui è una questione veramente di rispetto e prossimità. Cioè, il popolo libico è un popolo che con l'Italia ha sempre avuto un rapporto privilegiato, non possiamo pensare di entrare in Libia e imporre una strategia italiana, dobbiamo farlo necessariamente con la diplomazia. No, questo è chiarissimo. Sarebbe drammatico nei rapporti per il futuro fare il contrario. Magari oggi avremmo un risultato immediato, ma fra 10 anni non saremmo più l'Italia e Libia, saremmo un occupante di fatto. Quindi, guardate i francesi, guardate l'approccio dei libici verso i francesi oggi e capite l'errore quanto è stato grande da parte dei francesi nel 2011. L'Italia non può correre questo errore, secondo me. Sì, allora, l'errore del 2011, il bombardamento Sarkozy dell'ordine, l'Italia seguì a ruota. Assolutamente, per ribadire quello che è accaduto in un recente passato, da lì si scoperchiò il vaso di Pandora libico, tutte le milizie, le tribù tenute a bada dal regime di Gheddafi. Velocissimo, se riesce, sinteticamente, non è che state trattando con Tripoli e con Sarraj come se fosse un'entità statale a tutti gli effetti quando non lo è, nel senso che è uno stato molto fragile con sovranità territoriale limitata, con un guardiacoste che ce l'ha solo perché glielo diamo noi e con un esercito che in realtà non è un esercito ma è un coacervo di milizie, molto spesso anche come la brigata 604 a Sirte pronta a passare dalla parte del nemico. Cioè non trova dissonante questo? È evidente che sia così, ma noi dobbiamo necessariamente avere un interlocutore statuale. Poi chiaro che e molto più pragmaticamente incontriamo tutte le parti coinvolte e purtroppo anche a volte prende il rischio di legittimare attori che non sono politici. Haftar stesso è un militare, sì. E le milizie sono militari. Quindi parlate scusa se la interrompo, parlate anche sì. con le milizie, diciamo milizie, diciamo tribù in senso lato, in senso certo. lato, quindi per esempio anche con Misurata, per fare un nome. Parliamo con tutti a vari livelli, ma parliamo chiaramente anche con le municipalità. Per tanti anni, certo. negli ultimi anni in Libia l'unica entità concreta esistente politicamente erano le municipalità, i comuni per intenderci, sì, sì. E si è parlato anche con loro e qui il punto è veramente mettere tutti attorno al tavolo. È chiaro che però se dobbiamo avere e dobbiamo avere un interlocutore nazionale rappresentativo non può che essere quello riconosciuto dalla comunità internazionale che è Al-Sarraj. Su questo non c'è dubbio. Sulla parte diciamo della stabilizzazione del cessate il fuoco chiaramente Haftar diventa un interlocutore imprescindibile. Certo, anche perché alle porte di Tripoli 30 secondi, sottosegretario Di Stefano, sì. se riesce, telegrafico, finora è stato bravissimo, sì. devo dirlo. Caso egiziano, non solo Regeni ma anche Zaki, ci sono continue evidenze di non rispetto dei diritti umani. Esiste un obbligo non scritto, ma consuetudinario, dei membri dell'Unione Europea di non collaborazione con paesi che violano sistematicamente i diritti umani. Perché l'Italia non prende una posizione chiara? Beh, l'Italia in realtà con l'Egitto è dal caso Regeni che ha posizioni molto determinate. Io qui forse essendo impopolare devo sì. dire che non condivido l'idea di chi dice dovremmo interrompere qualunque rapporto con l'Egitto, ad esempio la rimozione dell'ambasciatore. Non per l'ambasciatore in sé, la persona sì. che oggi lo è, Cantini, sì. ma la figura del rapporto diplomatico, del consigliere diplomatico. Perché non puoi risolvere nulla se non hai un piede nel paese, se non parli con le autorità locali. Allora, se noi vogliamo che la magistratura egiziana collabori con quella italiana, non possiamo mettere l'Egitto in isolamento. Però è vero che nel caso Regeni, chiedo scusa, se ne interrompo, sul caso Regeni sì. l'ambasciatore è tornato, un anno dopo non si è risolto nulla. Sì, è chiaro questo, ma se non ci fosse l'Egitto avrebbe tutto il diritto di dire non è un problema mio più, cioè avete chiuso i rapporti, amen. Purtroppo è una materia molto delicata, su questo non c'è dubbio. Purtroppo devo chiudere, la ringrazio tantissimo, sottosegretario degli esteri Maglio Di Stefano, grazie mille. E Roberta, una parola. Grazie mille a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra, l'appuntamento è per domani, ore 16, siateci.